di propagazione, sentivo spagnoli, albanesi, cosa sentivo, figurati. Sì, ok, dai, Bianco per me, devo staccare un attimino. A dopo, signori, ciao a tutti. Franco, Cristian, Natalino, Pomponio, tutti quelli ascolto, non mi ricordo chi altro c'era, dai, ritenetevi salutati. A dopo, ciao. Ciao Marco, dai, sì, dopo già entro anch'io, mi rimango in ascolto più tardi. Se mi dici a che ora, verso che ora entri, già entro anch'io. Se posso, forse devo uscire oggi. Vado a con quelle signorine che si fanno dare i soldi, come si chiamano? Lucciole! Ma tu sei cuocuomane, sì. Le lucciole, l'ho sentito. Ciao, concetto. Ma naturalmente sto scherzando, io sono contrario. E poi costano anche troppo, costassero poco ancora. Ciao Marco, comunque anch'io sto scherzando, Già lo so, non c'è problema. Ogni tanto mi piace fare così battute di questo tipo, là. Cappala, rimango in quel rixio, salutoni a tutti. Non lo fare, Natalie, non lo fare. Attenzione, canale 10, cambio basso. Eh beh, doppio, come va? Era pieno di gente, sono spariti tutti di colpo. Ah, vero? Ah, io sono andato perché stavo cantando. Adesso ho finito, adesso mi accendo un po' la radio, così almeno il secondo il canto per me è... mi scarica un po'. Io credo perché sono sempre andando per i panini. Ah, ciao Cristian, no, mangia che ingrasso. Cosa ingrasso? Sono sceso già da due tagli di pantalone, cacchio, in un mese. A dieta sì. No, sto camminando non poco, ma un bel. Scappa, ma tu sembra controllarmi sotto casa, vieni. Ma io passo il solito lì per accrociare le strade, capito? Ah, ma non è che va la pizzina in chimica? No, no, per accrociare i posti di blocco sulla strada. No, passo lì che, scusate, a chilometro scendo da casa, capito? Ah, ecco. Ma devi stare attento lì proprio all'inizio della Budi, lì. A me vanno i buttiti, mi hanno preso 3 punti alla patente e 173 di multa, perché stavo andando a 72 nel limite di 50. Invece lo vedo, a me la sedia mi ha fatto solo 5 punti alla patente, però non ricordo quando, qualche anni fa, basta, senza cintura di sicurezza, e non ne ho patentato. Ah, a me mai me l'avevano fatto multa per eccesso di velocità, questa è la prima volta. Va bene Marco, avanti, riprendi. Eia. Ma sì, stavo facendo qua roba, c'era Natalino, Cristian era entrato, c'era Franco la capocaccia, c'era Pomponio, chi altro c'era? No, Cristian, allora lo scambio per Carlo, dalla voce, quando è Mara Mobile, lo scambio per Carlo sempre. Ah no, va bene, il microfono faccio lo stesso, però... Oggi ho parlato con le Tenerife, Santiago 9 sono arrivato. Ottimo, oggi c'era una discreta propagazione già. Sì, con le Tenerife ho parlato, ci sentivamo bene sia a lui che lui a me. Santiago 9 già va bene. In banda o in AM? No, in AM. E col volantino, quello che non uso quasi mai, con l'Intec, sotto le basi, ho fatto il collegamento. Leia, dai, riprendete voi, io sto perdendo quota, dai, e poi c'ho la macchina del caffè che scalda. Dai, Quirix per me già. Ehi, Amato, questo periodo si è molto vago, là. Non hai voglia. No, sai cos'è? Che non riesco a rimanere in ruota, perché tanto tra mangiare auri improbabili, poi adesso mi chiama, ma poi devo fare una cosa al computer, poco fa stavo tentando di saldare, perché le mani mi tremano, la pista non è ancora più di una volta, è roba piccola, e poi il caffè, e poi il telefono, alla fine non riesco a stare in ruota fisso, quindi entro, c'è volte saluto, sono 5 minuti, poi mi andando. No, tanto, se no è troppo... è anche spallante essere troppo assidui, capito? Va bene, riprendi Christian, Quarix per me. A dopo. Ok, aspetta. E tu cosa stai facendo? E tu sei vicino a un cucciolo, sì, eh? A me stai dicendo qui. Dove è il cuccioletto, eh? Ma è un cucciolo, già tutto, compie 7 anni, il 16 di marzo. È un pastore cagnolone quello. Ma oggi con presunto avrebbe fatto 5 anni. Ho detto che è un pastore cagnolone quello, porta il conduttore a passeggio, no, non tu no, e lui ti porta a passeggio a te, talmente grande. No, no, già lui, già mi sta a fianco, è stato bene, dai, non è, tira solo quando ci sono cani in calore, sente l'odore, allora mi tira, ma se no cammina a fianco a me. Se non potevo tirarti quando svenivo qualche bella ragazza, cazzo, dice, ascolta, fa una cosa a me, anche tu mettiti in calore, tiralo fuori, tiralo fuori. Avanti Cristo, c'è sempre un mattese. Adesso mai cambierà la vita. Sempre uguale sono io, non cambio mai. Prendiamo anche un comodo. Adesso. Sì, ma di cosa spade? Chiama di gava e chiama di gava. Ma Franco California era da capocaccia. Ehi. Ci sei Franco, mi ascolti? Lui mi ascoltava, eh. A te ti ascoltava? Capo di Roger, sì. Dalla macchina? Esatto, dalla macchina. Perché si è messo un'antenna buona, quindi prende un bel bene. Di mammo la messa. Quindi Marco se è nato in Corex. Ma deve avere chiuso, forse era con il camper. No, mi ha detto automobile. Ah, in macchina è andato. Se non ha piccato, può cacciare la vita, perché non si può pescare. Magari lui lascia la macchina un po' distante e va nel punto libero. Antonè, un attimino, QTC canale 20. Sì, yeah. Avanti qui. Sì, io sposto la macchina. Cosa qui? Macchina. Franco, è sceso dalla macchina, ma la moto c'era? Guarda, c'era più o meno una mezz'oretta fa, più o meno. Cappagata. Questo dove sei? Sacro il cuore. Cosa ci fa Sacro il cuore? Poi gli ha fatto un giro. Quella è zona mia, eh. Ah, scorso, guarda Sacro il cuore, ci sono nato, eh. Sei nato a Sacro il cuore? Io no, perché? Che non sono abitato. Hai visto dove c'è la scuola media? Come giri l'angolo, il primo portone è abita buia, all'ultimo piano. Io viaggio 8. Sì, a Rosogo. Non so, tu c'era anche Andrea Oceano, viaggio 8. Allora, visto. Cosa? Era mia. Allora, vicino di casa, entriamo a saperlo. Aveva peraltro dei vicini. Sì, sì. Non me lo ricordo, io ero un ragazzino. Andavo lì, andavo a si avvicinare, ma io che ho la macchina, state attenti alla macchina mia, eh. Ma io all'epoca ero piccolino ancora. Poi dietro c'era la principessa, c'era un po' di gente con la zona lì. Sì, non beh, adesso non c'è più nessuno, adesso mi, però poi ripopolando adesso, perché non c'è più concessione, allora un po' si ripopola adesso. Ma ne stanno entrando molti, se li sappiamo coltivare le persone e rimangono, ne stanno entrando nuovi, è entrato anche Andrea che vabbè, era di tanti anni fa, modulava, però qui una ventina d'anni ha smesso, adesso ha ripreso, capito? Ha trovato un'occasione e ha comprato questo apparato con l'antenna magnetica che va molto bene, modula l'avviamento, ma io lo sento bene. Con l'antenna magnetica da Amazon e l'ha pagato la fesseria, capito? Ah, che più ru. Stasera stava modulando con noi, verso le 5:30 più o meno. Ah, è doppio ru, eh? Ah, è Lucrezia. Ma dove sei? A casa tua? No, giù. Stasera ho collegato le Tenerife. L'hai visto? No, dalla macchina o da casa? No, da casa, con un apparecchio, quello che c'è con due vatti, quello della Intec, quello che non uso mai, l'ho acceso, ho sentito le Tenerife, li ho chiamati e mi hanno risposto subito. Mi hanno detto Santiago 9, Radio 5, a bomba. Via. Tu mi ero lasciato fare una passeggiata, fammi un po' di asparagi già, ne ho trovato più un paio, però cari, lì è meglio fatti con la cipolla, aspetta che controllo un attimo. Sono buone, anche affrittata sono buone, io me la faccio con l'uovo affrittata, sono buone. Ah, se non vedevi andare, dove c'è il passi, ti ritrovi. Oppure a Trattamona andremo, nella pinetta. A Capretto, Luca. Oh, lui, ma in campagna restavi le presi. Eccomi qua già. Avete in campagna li hai presi questi asparagi, in campagna dei mariti? No, sono andati con un amico a farci una passeggiata, mi ha fatto un pochettino, ma proprio un mazzettino piccolino, mi giusto assaggiarli. Sono finito, già passati, già la gente purtroppo è disoccupata e va a fare asparagi, quando è tempo di avere asparagi, uno è tempo di lumache, va a fare lumache, giusto per guadagnarsi la giornata. Le funghi? Chi è? Ma io la funghi, ma... Ma tu come lo senti a Cristiano, a Luca? Come, Gianni? Lo senti bene a Cristiano, io lo sento tutto buco. Mi sente? Prova a fare un passaggio lungo, cioè toccate nuovo il microfono. Non ho toccato nulla ancora il microfono, lasciate così come l'altro giorno. Adesso già va bene, dai, secondo come te lo metti, però deve essere te l'avvicini troppo, impasta tutta la voce e si rompe di lui. Esatto, adesso ce l'ho all'altezza, diciamo, leva della marcia. E adesso un bombo, va benissimo. Le sto cambiando e parlando. Ehi, ehi. Avanti, Lucrezia. Vabbè, sei contento dell'antenna? Ci deve essere qualcuno, mi sta squattrando. Aspetta che vado a vedere. Controlla, controlla. Luca! Cristian, sono sul 23 Luca che mi sta squatterando. Chi è squatterando Luca? E allora, è sul 23, e siccome si vedono le mie antenne con la sua, che mi splattera di brutto, non capisco quello che dici. E tu l'antenna gliela spari, molto ci vuole. Cosa? Tu l'antenna gliela spari. Ah, io sono sul 23, là. Luca! Attento Luca, vieni sul 10, mi sta squatterando, cambia. Lucrezia, Lucrezia, zuppa. Hola, attenzione Luca. Attenzione 10.